Ad alta voce. Chiara Guidi legge Memorie dal sottosuolo di Fyodor Dostoevskij. Traduzione di Alfredo Polledro. Quinta puntata. Un momento, signori. Anch'io volevo cominciare così, lo confesso. Mi sono perfino spaventato. Orora volevo gridare che il volere già dipende, lo sa il diavolo, da che cosa, e che magari così è per il meglio. Ma mi sono ricordato della scienza e sono restato lì. E a questo punto avete cominciato a parlare voi. Sul serio, infatti. Se un giorno troveranno davvero la formula di tutti i vostri voleri e capricci, cioè da che cosa essi dipendono, secondo quali leggi precisamente sorgono, come precisamente si diffondano, dove tendano, nel tale e nel tal'altro caso e così via, cioè la vera formula matematica, allora l'uomo c'è caso che cessi anche subito di volere, e anzi c'è caso che cessi di sicuro. Beh, che gusto c'è a volere, secondo una tabella? Non basta. Non basta. Da uomo si trasformerà subito in una puntina d'organo o in qualcosa del genere. Perché che è mai un uomo senza desideri, senza volontà, senza voleri? Se non una puntina nel cilindro di un organo. Come la pensate voi? Calcoliamo le probabilità. La cosa può accadere o no? Concludete voi. I nostri voleri in massima parte sono erronei per un modo erroneo di considerare i nostri vantaggi. A volte vogliamo delle vere assurdità, perché in queste assurdità, per nostra stupidaggine, vediamo la via più facile per raggiungere un qualche vantaggio predeterminato. Beh, e quando tutto questo sarà stato spiegato, calcolato sulla carta, cosa possibilissima, perché è odioso ed insensato credere anticipatamente che certe leggi naturali l'uomo non le conoscerà mai. Allora, si intende, non ci saranno più i cosiddetti desideri. Infatti, se un giorno il volere si accorderà perfettamente con la ragione, allora ragioneremo e non vorremmo, essenzialmente, in quanto è impossibile, per esempio, conservando la ragione, volere una cosa insensata e, in tal modo, opporsi scientemente alla ragione e desiderare il proprio danno. E poiché tutti i voleri e i ragionamenti possono essere effettivamente computati, già che un giorno si scopriranno bene le leggi della nostra cosiddetta libera volontà, può anche venir fuori, perciò, scherzi a parte, qualcosa del genere d'una tabella, in modo che si voglia effettivamente secondo questa tabella. Infatti, se per esempio un giorno mi calcoleranno e dimostreranno che se ho fatto le fiche al tale è stato precisamente perché non potevo non farle e perché dovevo necessariamente farle col tal dito, allora che cosa resterà in me di libero? Specialmente se sono un dotto e ho terminato gli studi scientifici da qualche parte. Infatti, allora, io posso calcolare in anticipo tutta la mia vita per 30 anni. Insomma, se questo verrà fuori, per noi non ci sarà più niente da fare. Bisognerà capirlo lo stesso. E in generale poi dobbiamo ripeterci senza posa che proprio in quel determinato momento, in quelle determinate circostanze, la natura non ci consulta. Che bisogna accettarla com'è e non come fantastichiamo noi. E se tendiamo effettivamente alla tabella e al calendario, beh, magari perfino alla storta, che farci? Bisogna ammettere anche la storta, se no quella ci si metterà da sé, lasciandoci, sì signori. Sì, signori, Proprio questo è il punto per me. Signori, scusatemi se mi sono lasciato prendere dalla filosofia. Qui ci sono 40 anni di sottosuolo. Permettetemi di fantasticare un poco. Vedete, è la ragione, signori, è una bella cosa. È indiscutibile. Ma la ragione non è che la ragione. E non soddisfa che la facoltà raziocinativa dell'uomo. Mentre il volere è una manifestazione di tutta la vita, cioè di tutta la vita umana, con la ragione e con tutti i pruriti. E sebbene la nostra vita in questa manifestazione riesca sovente una porcheriola, pur tuttavia è la vita e non è soltanto un'estrazione di radice quadrata. Io infatti, per esempio, è naturalissimo che voglia vivere per soddisfare tutta la mia capacità di vivere e non per soddisfare soltanto la mia capacità raziocinante, cioè forse una ventesima parte della mia intera capacità di vivere. Che cosa sa la ragione? Cosa sa la ragione? La ragione sa solamente quello che è riuscita a conoscere. Certe cose magari non le conoscerà mai, anche se non è una consolazione. Perché non devo dirlo? Perché non dirlo? Mentre la natura umana agisce nella sua interezza, con tutto quello che contiene, coscientemente e inconsciamente, e magari dice il falso, ma vive. Io sospetto, signori, che mi guardiate con compatimento. Mi ripetete che un uomo istruito ed evoluto, come sarà, insomma, l'uomo del futuro, non può scientemente volere per sé qualcosa di svantaggioso e che questa è matematica. Sono proprio d'accordo. È effettivamente matematica. Ma vi ripeto, per la centesima volta, che c'è soltanto un caso, uno solo, in cui l'uomo può augurarsi apposta, coscientemente, perfino ciò che è dannoso, ciò che è sciocco, perfino ciò che è sciocchissimo, e precisamente per avere il diritto di augurarsi perfino ciò che è sciocchissimo e non essere legato dall'obbligo di augurarsi soltanto ciò che è intelligente. Infatti, questo fatto sciocchissimo, questo nostro capriccio, signori, può davvero essere più vantaggioso per noi di tutto quello che c'è sulla Terra, specialmente in certi casi, e in particolare può essere più vantaggioso di tutti i vantaggi, e perfino nel caso in cui ci rechi un danno manifesto e contraddica alle più sane conclusioni della nostra ragione intorno ai vantaggi, perché in ogni caso ci conserva la cosa più importante e più cara, cioè la nostra personalità e la nostra individualità. Certuni affermano che per l'uomo questa è davvero la cosa più cara di tutto. Certo, il volere può anche, se vuole, mettersi d'accordo con la ragione, specialmente non abusandone, ma valendosene moderatamente. La cosa è utile e a volte perfino lodevole, ma il volere molto spesso, e anzi per lo più, dissente del tutto e ostinatamente dalla ragione. E sapete che anche questo è utile. E a volte perfino lodevolissimo. Signori, supponiamo che l'uomo non sia sciocco. Effettivamente non c'è modo di dir questo di lui. Non fosse che per il fatto solo che se lui è stupido, chi mai allora sarà intelligente. Ma anche se non è stupido, è pur sempre mostruosamente ingrato. Ingrato. in modo fenomenale. Io penso perfino che la miglior definizione dell'uomo sia questa: un essere a due gambe e ingrato. Ma questo non è ancora tutto. Non è ancora il suo principale difetto. Il suo principalissimo difetto è la costante immoralità. Costante! Cominciando dal diluvio universale fino al periodo Schleswig-Holsteiniano dei destini umani. Immoralità e per conseguenza anche irragionevolezza, giacché è noto da un pezzo che l'irragionevolezza non proviene altro che dall'immoralità. Provate dunque a gettare uno sguardo alla storia dell'umanità. Che cosa vedrete? Uno spettacolo maestoso? Magari anche maestoso. Basterebbe la figura che fa il colosso di Rodi. Non per nulla. Il signor Haniewski attesta a suo riguardo come gli uni dicano che esso è un prodotto delle mani dell'uomo, mentre altri affermano che è stato creato dalla natura stessa. Uno spettacolo variopinto. Magari anche variopinto. Basta esaminare in tutti i secoli e presso tutti i popoli le sole divise di gala dei militari e dei civili. Questo solo che figura fa, eh? E con le divise di servizio poi c'è da rompersi addirittura il capo. Non c'è uno storico che ci resista, uno spettacolo uniforme? Beh, magari uniforme. Se le danno, anche ora se le danno, se le davano prima e se le davano dopo. Convenite che è perfino un po' troppo uniforme. Insomma, tutto si può dire della storia, tutto ciò che può venire in mente all'immaginazione più disordinata. Una cosa sola non si può dire: che sia uno spettacolo ragionevole. Alla prima parola vi si impiglierebbe la lingua. Ed anzi, ecco, che faccenda si incontra qui ogni momento. Nella vita compaiono continuamente di quegli uomini morali e ragionevoli, di quei saggi e amici del genere umano, che si propongono appunto come scopo in tutta la loro vita di comportarsi nel modo più nobile e ragionevole possibile, per così dire, di illuminare il prossimo con la propria persona, precisamente per dimostrargli che, in effetto, a questo mondo si può vivere moralmente e ragionevolmente. Ebbene, si sa che molti di questi amici del genere umano, presto o tardi, verso la fine della vita, si sono traditi, dando luogo a un qualche episodio, a volte perfino dei più sconvenienti. Ora vi domando, che cosa ci si può mai aspettare dall'uomo? Se è un essere dotato di così strane qualità, ma colmatelo di tutti i beni terreni, immergetelo nella felicità con tutto il capo, in modo che non vengano su altro che le bollicine in cima alla felicità, come sull'acqua. Dategli una tale agiatezza economica che non gli rimanga proprio più nulla da fare fuorché dormire, mangiare panforti, darsi d'attorno perché la storia non si interrompa. E anche lui, cioè l'uomo, anche qui, per pura ingratitudine, per pura derisione, vi farà qualche porcheria. Metterà a repentaglio perfino i panforti e desidererà apposta l'assurdità più funesta, l'insensatezza più antieconomica. Unicamente per mescolare a tutta questa positiva ragionevolezza il proprio funesto elemento fantastico. Precisamente i suoi fantastici sogni, la sua volgarissima stupidità desidererà conservarli unicamente per confermare a se stesso, come se questo fosse poi tanto indispensabile, che gli uomini sono ancora sempre uomini. E non tasti di pianoforte. E benché ci sonino sopra le stesse leggi naturali, di mano propria, Esse minacciano però di suonare fino al punto che, tranne quello che c'è nel calendario, non si possa più volere niente. Ma questo non basta. No, no, no. Perfino nel caso che diventasse effettivamente un tasto di pianoforte, a dimostrarglielo, perfino con le scienze naturali e matematicamente, anche allora non risavirebbe. Ma al contrario, farebbe apposta qualcosa, unicamente per pura ingratitudine. Precisamente per tenere duro. E nel caso che gli mancassero i mezzi, escogiterebbe la distruzione e il caos, escogiterebbe svariate sofferenze, tuttavia terrebbe duro. Lancerebbe una maledizione per il mondo, e poiché non c'è che l'uomo che può maledire, è un suo privilegio che lo distingue in modo essenzialissimo dagli altri animali. C'è caso che con la sola maledizione raggiunga il suo scopo. Cioè, si convinca effettivamente che è un uomo e non un tasto di pianoforte. Se voi direte che anche tutto questo si può calcolare secondo la tabella, il caos, le tenebre, la maledizione, sicché la sola possibilità di un calcolo preventivo fermerebbe tutto e la ragione riprenderebbe i suoi diritti, in questo caso l'uomo diventerà pazzo, apposta per essere privo di ragione e tenere duro. Io ci credo, ne rispondo, perché infatti tutto il compito dell'uomo pare che consista effettivamente solo in questo: che l'uomo dimostri a se stesso ogni momento che è un uomo e non una puntina, anche con suo danno, purché lo dimostri, anche col trogloditismo, purché lo dimostri. E dopo di ciò, come non commettere il peccato di vantarsi che a questo punto non siamo ancora e che il volere per intanto dipende ancora, lo sa il diavolo, da che cosa? Voi mi griderete, sempre che mi degnate ancora delle vostre grida, che qui nessuno mi toglie la volontà, che qui non si fa altro che darsi d'attorno per fare in modo che la mia stessa volontà di sua propria volontà coincida con i miei normali interessi, con le leggi naturali e con l'aritmetica. Signori, che volontà propria ci sarà mai quando si giunga alla tabella e all'aritmetica, quando non abbia più corso che il 2 per 2 è 4? 2 per 2 fa 4, anche all'infuori della mia volontà. È la volontà propria? Chiara Guidi ha letto Memorie del sottosuolo di Dostoevskij, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it. Per riascoltare il programma, radio3pod.rai.it.